Io sono buffo, l'attitudine è Riot. Faccio un 16 per Cardi con la mia, poi scompaio. Scrivo una strofa in freestyle perché è giusto esserci, ma non mi impegno troppo, se no andate in parappaio. Tutti pronti all'arachiri, qui l'onore suicida. Vi pagate le collabo degli artisti americani. Nei miei dischi c'ho i fratelli, niente segmentali. Il nome della mia crew l'ho tatuato con la vostra invidia. Dimensione parallela. Abbiamo il suono classico, l'evoluzione dello stile senza un cambiamento drastico. Ho studiato tre dischi del totem dall'afgano masticando Pumba per diventare un peso massimo. Ho un'idea ben stampata nel profondo, la vivo quotidianamente, la difendo con orgoglio. Non crollo perché ciò che mi alimenta è inesauribile. È l'amore che l'hip hop mi dona ogni giorno.